corrispondente Vincenzo Lombardo, appunto, che ci dirà le ultime notizie sull'Unione Europea. Ciao Vincenzo. Sì, buongiorno. Buongiorno, riprendiamo la linea anche oggi da Strasburgo. Siamo in compagnia di un deputato siciliano, l'onorevole Giovanni Lavia, un parlamentare molto attivo nell'Unione Europea e soprattutto protagonista di un momento importante che si tiene oggi in sessione plenaria a Strasburgo, che è l'approvazione del bilancio europeo. Onorevole Lavia, bentornato a CRM. Grazie a voi dell'invito. Io sento in cuffia un ritorno. Se da Cefalù potete sistemare il segnale per evitare di avere una linea disturbata prima di affrontare temi e numeri del bilancio europeo, che sono abbastanza complessi. Vediamo se riescono i nostri tecnici a sistemare. Va bene, no, per adesso va bene così. Salute. Ora poi sistemerà la linea. Ok. Allora, intanto apriamo con questa notizia di oggi, che il ritiro per i siciliani del premio Nobel dell'Europa da parte dell'onorevole Lavia. Oggi ho avuto grande piacere di poter ritirare ovviamente per tutti i cittadini siciliani, non titolo personale, il premio Nobel. È stato un momento sicuramente veramente molto forte, che mi ha dato questo senso di rappresentanza, questo senso di presenza, nome per conto di tanti siciliani, e ottengo anche un riconoscimento all'Europa, a un'Europa che si è battuta per la pace, a un'Europa che ha curato crescita per i tutti, ci deve aiutare a uscire dalla crisi, che tutti questi paesi, chiaramente soprattutto l'Italia, stanno vivendo in questo periodo. Io spero che con questo premio i cittadini europei si sentano ancora più europei, perché è un importante riconoscimento. Oggi non si ha questo senso di appartenenza all'Europa, probabilmente dall'esterno invece si ha una visione diversa dell'Europa e dei cittadini europei. La consegna del Nobel ne è un esempio. Ne è un esempio brillante, visto che viene consegnato a un'istituzione che rappresenta più di 500 milioni di cittadini. Dall'altro lato però è anche un passaggio importante, perché questa Europa non la possiamo solo considerare quando ci bacchetta, quando ovviamente ci impone delle regole, ma dobbiamo supportarla e accompagnarla in un processo di crescita che consenta sia la crescita dell'Europa sia la crescita dell'Italia all'interno dell'Europa. E per questo ovviamente il bilancio è uno strumento eccezionale di pianificazione, controllo, ma soprattutto di stimolo all'economia anche di un paese come il nostro. Il bilancio europeo si parla tra pochissime ore all'interno della plenaria convocata a Strasburgo, perché oggi cosa succede? L'onorevole Lavia porta in sessione la rettifica del bilancio 2012 e l'approvazione del bilancio 2013. Cosa succederà più tardi? Più tardi accadrà, visto che ormai i gruppi politici hanno raggiunto un accordo, abbiamo raggiunto un accordo anche con i 27 capi di Stato, quindi oggi è solo la formalizzazione finale del processo. Accadrà che firmeremo il bilancio rettificativo e firmeremo il bilancio del 2013. In altri termini, gli Stati mettono 6 miliardi di risorse fresche per pagare i contendenti del 2012, e di questi 6 miliardi 300 milioni arriveranno alla nostra bella Sicilia. Dall'altro lato andremo a approvare un bilancio da 100... Ecco, arriveranno alla Sicilia per i pagamenti del fondo sociale e dei fondi di sviluppo rurale o regionale. Sì, sostanzialmente si tratta di rimborsi per pagamenti già effettuati dal fondo europeo di sviluppo regionale e dal fondo sociale. E quindi andranno a rimpinguare le casse esauste della nostra regione. Dall'altro lato approveremo il bilancio per il 2013, un bilancio a 150 miliardi di euro, un bilancio fortemente orientato alla crescita, allo sviluppo, che risolverà tutti i problemi che ci sono stati fino adesso, i pagamenti per quanto riguarda alcuni programmi comunitari come Erasmus, Leonardo, e quindi dobbiamo fugare tutti i dubbi e le perplessità che ci sono anche sul nostro quindi territorio. Quindi potranno ripartire, perché molte università in attesa del bilancio 2013 avevano bloccato nuove partenze di studenti all'estero? Molte università, anche quelle siciliane, avevano deciso sostanzialmente di bloccare i bandi, di non far partire i ragazzi, mentre adesso possiamo dare loro l'assicurazione che c'è la copertura finanziaria, possono ricominciare tranquillamente con le solite procedure per far partire i ragazzi e per attivare questo importantissimo programma comunitario di scambio di esperienze. È uno dei programmi che ha un livello di conoscenza maggiore in Europa, anche se non è uno dei più finanziati. Cioè, pensate che parliamo di un programma con una dotazione finanziaria di poco superiore al centinaio di milioni di euro, che rispetto ai 150 miliardi del bilancio europeo è ben poca cosa. Però è avvertito dai giovani, dalla popolazione. Pensate solo, vi faccio un raffronto di numeri. Nel caso del bilancio dell'Europa abbiamo 45 miliardi di euro destinati alla politica di sviluppo regionale e 40 miliardi anche più destinati alla politica agricola. Confrontate questi dati con i 100 milioni dell'Erasmus e vedete che è ben poca cosa. In sottofondo i nostri amici radioascoltatori sentono la musica di Natale, perché diciamo che qui in Parlamento oggi ci sono gli zampognari, anche qui è Natale, quindi ogni tanto ci sono questi passaggi dinanzi agli studi della radio che sono posti all'ingresso della plenaria, quindi anche qui insomma, facciamo questa atmosfera. In realtà è una manifestazione simbolica questa, ed è una contrapposizione ideale tra i paesi del nord Europa che adottano quale simbolo del Natale l'albero e i paesi del sud Europa che adottano quale simbolo del Natale il presepe. E in questa contrapposizione culturale, ideologica, di tradizioni, ovviamente qualche collega buontempone ha voluto rafforzare la presenza dandone una notevole esibizione sonora con queste zampogne che da stamattina sono all'interno del Parlamento e che ovviamente attraggono l'attenzione molto più alle nostre parole. Perché è inusuale vedere gli zampognari, probabilmente è la prima volta che capita qui a Strasburgo di averli tra le vie, i corridoi del Parlamento europeo. Non c'è dubbio, anche perché le zampogne si sentono, suonano abbastanza forte e quindi dovremo affrontare anche questa operazione quest'oggi. Quindi torniamo al bilancio europeo, più tardi si vota, abbiamo detto 2012 ok con la rettifica di 6 miliardi di euro, 2013 150 miliardi stanziati per tutti i paesi membri dell'Europa e poi resta ancora sul tappeto invece l'accordo che non sembra essere venuto fuori dagli ultimi incontri dei capi di Stato anche con Monti, Merkel e Hollande, in cui per il bilancio 2014-2020 non ci sarebbe ancora l'intesa tra questi paesi. Sì, la questione là è più complessa perché non c'è bisogno solo dell'intesa, i paesi 27 si possono mettere d'accordo, ma poi devono venire qua in Parlamento e l'accordo finanziario lo votiamo noi e potremmo dire sì, così come potremmo dire no. Per cui la minaccia che il Parlamento ha già fatto ai capi di Stato è che se il bilancio pluriennale, cioè questo stanziamento di fondi per i prossimi 7 anni della politica, delle politiche europee, non dovesse essere sufficiente nella nostra valutazione, voteremo contro e bocceremo il bilancio proposto dai capi di Stato. Loro lo sanno e sanno che la proposta ultima che è pervenuta da Van Rompuy per il Parlamento non è accettabile. Quindi dovranno mediarlo con il Parlamento europeo che in questi anni mi sembra che sia rafforzato, no? Dopo il Trattato di Lisbona, su questi temi, così come su tanti altri, siamo in regime di codecisione, quindi noi decidiamo e in tema di bilancio l'autorità principale di bilancio, che ha l'ultima parola, perché oggi saremo noi a dire sì o no al bilancio, siamo gli ultimi e subito dopo il Presidente del Parlamento firma, sul bilancio pluriennale succederà la stessa cosa, quindi saremo noi a avere l'ultima parola e a poter dire sì o no a questo accordo per il finanziamento dell'Europa tra i 27 capi di Stato. Ottimo. E la partita la giocheremo, cioè non siamo disponibili a delegare. E lei da relatore certamente sicuramente lavorerà per portare qualcosa in più all'Italia e in particolare alla sua regione che è la Sicilia, soprattutto sulla politica agraria comunitaria che insomma è di particolare interesse per la nostra regione. Vedete, il fatto di fare il relatore del bilancio mi consente poi di avere un stretto rapporto con la Commissione, con i capi di Stato. Oggi esco da un incontro fatto col commissario Potocnik all'ambiente per la destinazione delle risorse dell'AIFE, che è un progetto ambientale di rilevanza comunitaria. Ma venerdì riceveremo in Sicilia la visita del commissario Cioloș all'agricoltura, che verrà a vedere la nostra realtà, perché deve capire, e qua sottolineo deve con forza, quali sono le specificità della nostra regione, per cui alcune cose che ha scritto pensando all'agricoltura del Nord Europa adesso se le deve ingoiare e ingurgitare, perché non passerà dal Parlamento se non accetta le modifiche che noi gli abbiamo sottoposto. Quindi sarà un'ottima occasione di confronto. Venerdì, ma confronto, scontro più che confronto, ma comunque va bene, sta nelle cose. Insomma, anche a Strasburgo i temi sono accesi, sono caldi e il dialogo è aperto, come lo è in questo momento in Italia sulla politica interna, che l'Europa non vede, da quello che si legge dai giornali, di buon occhio. Vabbè, da questo punto di vista noi qua siamo tutti filo europei, europeisti. Crediamo in un futuro dell'Europa come patria comune dei 27, oggi ormai 28 paesi europei, e su questo siamo pronti a batterci anche sul piano interno, per cui penso che ne vedremo delle belle nei prossimi mesi. E nel mentre gli ascoltatori sentiranno questa campanella di sottofondo, che è quella che ci chiama al voto come... altri temi importanti che si affronteranno in questa sessione plenaria. Grazie Giovanni Lavia. Grazie a voi. E a presto su PRM. Grazie Vincenzo Lombardo per questa intervista. Oh. Alla prossima allora. Allora. Ciao. Anni io lavoro con la... Solo per te, per farti sorridere, sorridere. Questa vita moderna mi stressa, ho la testa sotto una pressa, poca fresca e gente depressa, vorrei vedere il mare dalla finestra. Una volta ci vedevo due prati e non due cantieri bloccati, rispetto agli anni passati siamo tutti un po' squilibrati, con la nostra vita di corsa, con lo scatto alla risposta, con un altro aumento all'imposta, è una losca cosca che imbosca. Questo mondo è freddo ma rido e mi sento fortunato, perché tutto ha un prezzo ma nulla vale quanto bacio. Scriverò una canzone solo per te e poi la canterò per farti sorridere, e cercherò parole bellissime che non saranno mai belle come te, belle come te, belle come te. Prenditi tutti i miei giorni se vuoi, meriti